È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La zanzara di Giuseppe Cruciani. Caro Parenzo, senti cosa ha detto oggi in tribunale, in un'udienza del processo Ruby, Ilda Boccassini. Sentiamo. Non c'è in audio, te lo dico io, te lo recito io. In questura, la notte tra il 27 e il 28 di maggio del 2010, si è verificato come un attacco militare. Un attacco militare per liberare Ruby. Le indagini hanno ricostruito attraverso le celle telefoniche tutto il tragitto che ha portato Nicole Minetti in questura quella notte, come fosse, parole testuali, un attacco militare. Adesso, per carità, va tutto bene, ma un attacco militare. Cara signora Boccassini, noi uomini della zanzara crediamo che questa sua espressione sia vagamente eccessiva, signora Boccassini. Un tantinello esagerata, volevo dire, o no? Un attacco militare. Poi in realtà un attacco militare concentrico con Michel Conceição e con Nicole Minetti, di cui sono stati ricostruiti tutti i passaggi, tutte le tracce, tutte le pedate sul cemento di Milano, di via Moscovo, non so che cos'è. Come fosse un attacco militare per liberare Ruby Rubacuori. Vabbè, sceneggiate a parte, la signora Boccassini ha detto un'altra cosa interessante, che ad Arcore era palese che c'erano persone che si prostituivano nel corso delle serate nella residenza del premier. Ha fatto un breve excursus dei fatti e ha spiegato che dalle intercettazioni nel corso dell'indagine era emerso un contesto di prostituzione che coinvolgeva anche una minorenne e si parlava di serate a cui partecipavano persone portate da Mora, Fede e Minetti. Vabbè, voci da Radio Padania in l'incazzatura della Lega su Berlusconi. Che hai dentro te, la luce negli occhi tuoi, è la tua terra che chiede. Volevo dire che un bel esempio l'ha dato Zaia, perché ai cittadini non si può dire non andate a votare come ha fatto Grazia a suo tempo. Dopo tanti anni, dopo aver preso tanta acqua l'anno scorso per reggere la bandiera, non sarò a Pontida. Perché tutta la nostra gerarchia, da boss in giù, si sono romanizzati. Dicono una cosa, poi ne fanno un'altra. Bovo Maroni, evitiamo la terza sberla, bisogna avere più coraggio, è una delle notizie di oggi, con Tremonti che annuncia la famosa riforma fiscale. Non vogliamo che qui si attui il proverbio dopo due sberle non c'è due senza tre, ecco. Il nuovo guru dell'Italia, Adriano Celentano, i francesi riflettano. La guerra alla Francia nucleare, dopo l'Italia denuclearizziamo la Francia. Il nuovo guru dell'Italia liberata, Adriano Celentano, beccatevelo. Questo risultato elettorale italiano io credo che si ripercuoterà anche in Europa e i francesi dovranno prendere coscienza che insomma loro veramente dormono su una fornace radioattiva e quindi cominceranno a dire insomma gli italiani è già la seconda volta che azzeccano, dice Di Pietro. E quindi io penso che dovranno farsi anche loro una riflessione. Gianfranco Miccichè, buonasera. Buonasera. Che bella canzone che vi siete inventati. Mi emoziona. Chi la canta, signor Miccichè? sono dei ragazzi del sud che vivono a Milano. Dei ragazzi del sud che vivono, ma facciamoli venire qui in studio a Milano a cantare il nuovo inno di Forza del Sud. Con gran piacere. Questo, pensi che quest'inno a noi ci è stato regalato da questi ragazzi del sud, sono tra alcuni campani, altri siciliani che hanno, e credo alcuni calabresi che hanno, così hanno sentito parlare di Forza del Sud, se ne sono in qualche maniera interessati e poi si sono innamorati di Forza del Sud. E un giorno mi è arrivata una mail con questa canzone che abbiamo pochissimo modificato rispetto a quella che mi era stata mandata originariamente, quindi di fatto è per intero quello il lavoro di questi ragazzi. L'inno di Forza del Sud che se la batte. Secondo te, Parenzo, è meglio l'inno di Forza del Sud o quello dei responsabili? Beh, ma questo non c'è dubbio, Forza del Sud, ma anche per le parole. Perché a te sta più simpatico Miccichetti Scilipoti, ma questo è un altro discorso. Questo non c'è ombra di dubbio, ma no, a parte questo, ma anche le parole, voglio dire, quell'altro, ma il testo di quel... Mettiamo a confronto, facciamo un grande referendum popolare senza quorum della Zanzara su tra i due... Tra tutti gli inni, va bene, 800-24-0024, questa è la Zanzara. Signor Miccichè, Tremonti, domanda subito, risposta immediata, Tremonti fa Muina... La fa un po' vedere e poi Nisba come al solito, oppure fa sul serio? Lei che è lì, che è sottosegretario alla presidenza del Consiglio ancora, con delega al CIPA, poi non lo so, magari... Spero di no, come dire, non ne sono sicuro, ma spero di no. Ah, non è sicuro, per cui lei dice che potrebbe succedere come sempre, che dice sì, bisogna fare la riforma e poi alla fine dice non ci sono... Io contro molti mi sono molto arrabbiato in campagna elettorale. Perché in campagna elettorale lui è venuto al sud dicendo perché vi dovete rendere conto che bisogna investire di più al sud e bisogna dare più risorse al sud. Poi gli ho detto questa veramente la considero una provocazione. Perché poi in realtà tutto ha fatto tranne quello, lei dice. No? Onestamente non è stato fatto tantissimo. Però al di là con tutte le motivazioni di questo mondo, ma non è stato fatto tantissimo. E dunque lei dice che questa cosa delle tasse... Non lo so, spero avvertamente sì, perché credo che se ne abbia bisogno l'Italia, ne abbia bisogno tutti i cittadini, mica è una scommessa mia o di qualcun altro, però credo che sia veramente necessario. Senta, ma Forza del Sud, che magari in futuro... Poi dicono sempre, ma che ti interessa che calino le tasse che tanto voi al Sud non le pagate mai? Beh, quello anche. Chi lo dice questo qua? Chi lo dice? Credo che questa sia una minchiata e sia invece necessario assolutamente che questa operazione si faccia. Beh, che certo che l'evasione del Sud sia superiore rispetto al Nord, non c'è dubbio. Infatti le motivazioni, perché l'evasione del Sud è perché se le tasse le paghi tutte di fatto chiudi, perché non ce la fai. Al Nord mi sembra che sia più per arricchimenti personali, ma insomma che sono importanti. Ah, lei dice che al Sud si evade perché sennò uno non ce la fa a campare, invece al Nord... quello. Io credo che tanti episodi di questo genere sono sicuri. E invece a Nord solo per arricchirsi di più? Mi pare, non ne sono sicuro. Vabbè, e come non è sicuro? non è che lei uno qualunque così di passaggio, insomma. Vabbè, io non posso essere certo perché non ho le carte, ma è una sensazione molto netta. Senta, ma questa questione dei ministeri a Nord, come la definisce lei? Il suo collega? Una minchiata. Una minchiata, lo dica in siculo, bene, una minchiata. Questo è meraviglioso. Dunque si passa dalla, com'è che ha detto, dalla puttanata... Allora, quello che posso dire è questo, che secondo me la Lega oggi sta perdendo la sua motivazione d'essere di una volta. Una volta la Lega si occupava della gente, si occupava degli ospedali, si occupava dei bovini, delle quote latte, delle cose. Ora si occupa di dove mettere la sede della Consob, di come aggredire la Fondazione Caribro e di dove spostare il ministero. Anche la RAI, nulla. Non gliene frega niente, giustamente, non gliene frega niente alla gente, anche secondo me non gliene frega niente, dunque lei la definisce una minchiata, dunque lei al sud non ci porterebbe nessun ministero in realtà. Ma quando mai? Io leverei gli assessorati che ci sono. Come, scusi? Io leverei gli assessorati che ci sono alla regione. Ah, gli assessorati, via gli assessorati della regione. Tutto questo pastoia incredibile di burocrazia, di imbrogli, di tangenti, e bisogna trovare un nuovo sistema di amministrazione in Italia. Bisogna eliminare le autorizzazioni, lo continuo a ripetere, il concetto di autorizzazione. Troppe autorizzazioni, questo è vero, troppe autorizzazioni. Senta, Miccichè, l'autocertificazione, senta, questa è una svolta. Ma interessante anche che Galan ha detto... Quando si parla in Italia si passa la vita a ricercare autorizzazioni, poi quando te le danno nessuno viene a controllare che tu faccia bene o no. hai un'autorizzazione che ti consente di fare, poi se lo fai esattamente come dice l'autorizzazione, mentre in tutti i paesi del mondo non si perde, c'è un controllo dopo, c'è un controllo successivo, ma lo Stato controlla. Bravo, questo è vero. Sentami Cichè, ma Forza del Sud, sempre per il mitico Sud, potrebbe in futuro allearsi anche col Partito Democratico? Cioè, avete limiti da questo punto di vista? È vero che lei dice io sono amico di Berlusconi, resto con Berlusconi? Questo io lo sono e lo rimango. È d'accordo, però in futuro è prevedibile? Forza del Sud è una forza politica, e nel momento in cui ci saranno le condizioni attuali, mi sembra difficile che si possa collegare a una forza di sinistra, ma non c'è dubbio che in futuro eventuali nuove leggi elettorali, sì, cose che non fanno una divisione così netta tra destra e sinistra, non è escluso. Per il Sud noi ci possiamo alleare in futuro anche col Partito Democratico, anche col diavolo. Traffico, torniamo tra un attimo. 800 24 00 24. Parenzo, è sempre a zanzara questa qua, c'è dubbio? No, perché lo ricordi? Perché lo ricordi? C'è dubbio oppure no? Detto anche in siciliano, no, inflessione, c'è dubbio o no? Dimmi. Non c'è nessun dubbio, devo dirti una roba fondamentale. Che sei nel Granducato di Siena, questo lo sapevamo? No! Parlano molto bene di questa decisione, degli scontri molto positivi. Ma finiscila, traffico. Senti, è il vento che arriva dal sud. Che vento arriva dal sud, caro Parenzo, perché il signor Mici... Che dici? Sì, ma adesso un messaggio sul telefonino. Se mi dai il tuo numero te lo giro. Dicendo sono delle merde parlando di voi, perché l'altro giorno hanno parlato malissimo dell'inno di Forza. Ma noi scherziamo, stavamo dicendo che se la batteva con l'inno dei responsabili come uno degli inni più brutti dei partiti, ma insomma questo è un giudizio. Ma perché no, c'è l'inno dei responsabili? Come no? L'inno dei responsabili, certo, assolutamente sì, l'inno creato da Scilipoti insieme a un noto cantautore, assolutamente. Vabbè, signor Michele, io voglio capire una cosa, lei è uscito dal gruppo del PDL, no? Però non avete fatto ancora gruppi autonomi. Tanto per fare gruppi autonomi ci vogliono i numeri. Noi oggi come oggi non li abbiamo ancora. Esatto, ma quanti siete in tutto, tra Camera, Senato, quanti noi siete? Stiamo uscendo dal gruppo, cioè che eravamo dentro il PDL, di quelli che stiamo uscendo, sì. Siamo 8 e 4. 8 alla Camera, 4 al Senato, giusto? Sì, però non significa che siano questi i numeri, perché poi questi sono quelli che erano dentro il PDL. Ma state corteggiando i responsabili? Di altri gruppi. State corteggiando pure i responsabili? Una cosa pazzesca, no, corteggiate. Sono quelli di Noi Sud, che in cui abbiamo sicuramente un accordo, ma che sono dentro i responsabili per adesso, quindi l'operazione uscita dal PDL è fatta da queste persone. Poi, ma lei quando l'ha detto a Berlusconi? Legislatura per fare i gruppi. Sì, quando lei non abbiamo nessuna premura. No, non avete fretta. Quando lei l'ha detto a Berlusconi, Berlusconi che ha fatto? Si è incazzato, ha detto che stai facendo? Non c'è rimasto bene questo. Non c'è rimasto poi bene. Lui sapeva che io stessi lavorando su questo, perché stavo lavorando su questo progetto. Non c'è dubbio. Gli ho spiegato come nel momento in cui si fa un partito e quindi si radica il partito nel territorio, abbiamo fatto le prime riunioni nazionali, eccetera, tutti mi chiedevano giustamente di uscire dal PDL, perché non si può fare un partito stando dentro un altro. E questo è corretto. Quindi nessun problema. Però lui... al PDL, come dire, non vogliamo creare nessun problema al PDL né alla maggioranza di centrodestra, anche perché meno di me l'elezione non lo vuole nessuno in questo momento, perché io devo fare il partito, quindi se mi danno un anno di tempo sono solo che felice. Però quando gliel'ha detto Berlusconi, un'accelerazione micidiale, per cui come dire, farò tutto per evitare che il governo cada. Però detto questo, Berlusconi non l'ha presa bene, cioè che le ha detto? Mi tradisci anche tu che sei stato... Lui sa che il mio non è un tradimento, lui sa che c'è un progetto molto preciso, che certo dipende anche dal come il PDL e questo governo si comporta con la Lega, perché se questo governo e se questa maggioranza fosse più forte nel rapporto con la Lega, forse non ce ne sarebbe stato bisogno. Quindi non c'è dubbio che un minimo di responsabilità io a questa maggioranza la do, però comunque è un progetto che non è un progetto di tradimento, è un progetto di politica, è un progetto che secondo me serve moltissimo alla gente del Sud, a cui la gente del Sud sta credendo moltissimo. Capito Parenzo, qui c'è una Berlusconi ha cerchiato dalla Lega da una parte, poi c'è anche la Forza del Sud, povero Berlusconi. Io sono vicino a Berlusconi da questo punto di vista, caro Parenzo. Io sono vicino a Berlusconi. Che vuoi chiedere? Sarebbe l'ideale il perfetto mediatore, perché è un uomo del nord ma ama molto il sud. Però la benzina l'ha finita, il tocco magico non c'è più, Michica, me lo dica chiaramente anche lei che è così vicino a Berlusconi. Dobbiamo vedere, aspettiamo. Come aspettiamo? Più di questo che dobbiamo aspettare? Non è che perché il referendum, vi faccio presente che il popolo di centrodestra è andato tutto a votare. Ho capito, però è una botta pure per Berlusconi. Questo risultato non è un risultato dei nostri oppositori, è un risultato di tutta l'Italia, di tutti gli italiani. Poi Berlusconi preferiva che non si andasse a votare, benissimo, ma non è che sia andato. Ha sbagliato? Ha sbagliato a dirlo? Ha sbagliato a dirlo? Cosa? Che non bisognava andare a votare, cioè che lui non sarebbe andato a votare. Che Berlusconi è sempre stato così, cioè dice quello che pensa, quindi ha detto anche questa volta. Ma non dovrebbe annunciare già la successione 2013, non mi candido, eccetera? Anche lei lo sa che non si candiderà tanto, mi ci credo. Io guardi, io non so niente. A me la cosa, come dire, questo problema delle successioni si fa nelle case reali. Vabbè, un po' c'è l'idea della casa reale. Non no? credo che in politica ci sia una cosa di successione. Facciamo politica e poi... Che succede là? Parenzo, allora c'è la questione Maroni che sale. Lei, amici, che è uomo del sud, con un Maroni premier ci si vedrebbe bene oppure no? Maroni è una delle persone della Lega che mi piace di più, non posso negarlo. Ah sì? Non fisicamente. E chi è che le piace di meno? Come? Chi è che le piace di meno? Calderoli? Chi le piace di meno? Ma io tanto ogni volta che uno dice che c'è uno che mi piace di più vuol dire che c'è pure uno. Per forza, lei ha detto uno che mi piace di più, ci sarà uno che le piace di meno pure. Non è che se dico questa è una delle donne più belle del mondo mi devi dire chi è quella. Cioè nella Lega le piace di più Maroni, invece le piace di meno chi? Bossi, Calderoli, chi le piace? Mi piace di più Maroni rispetto agli altri. Beh, rispetto agli altri, ce ne sarà uno che proprio non sopporta della Lega, proprio quando lo sente. Ma proprio... Non sopporto, non sopporto il PDL nella Lega, nel PD, nelle cose, tra le radio, e di tutto c'è qualcuno che non sopporta. Facciamo le cose in positivo, diciamo quali sono quelli che mi piacciono di più. Comunque, con un Maroni premier, anche Forza del Sud, anche il piccolo, ma che ne sappiamo, anche in futuro grande gruppo di Micciche, perché no? Io credo che Forza del Sud avrà grandissimo successo. Vabbè, questo lo dice lei. Sono fortemente convinto, se no non mi sarei messo a fare questa operazione. Parenzo, che dovevi chiedere al signor Micciche? No, ti dico che è curioso che Forza del Sud oggi ha come interlocutore un uomo del Sud che guida il PDL, che è il signor Alfano. Che è una pecetta? Il signor Alfano è una pecetta lì oppure serve a qualcosa? Micciche, lei è nemico quindi storico. Io volevo capire perché è pronto a rientrare nel PDL come componente del PDL ora che c'è Alfano che è uomo del Sud. No, che entra nel PDL, è appena uscito. Un uomo nato da Agrigento che si occupa del PDL. Peraltro con Alfano, devo essere sincero, siamo almeno quelli i rapporti politici si stanno assolutamente rasserenando, per cui io sono di questo contento, lo vedrò stasera appena finisco questa trasmissione, ho un appuntamento con lui, non poi se volete vi dico che ci siamo detti, no non ve lo dico. Sereno tra Micciche e Alfano, i due nemici siciliani, è molto importante. Abbiamo la borsa, no, che borsa? Abbiamo la pubblicità e il giornale radio. Tra poco. Sereno variabile. Sereno variabile, come sempre, con lei mi ci chiede, non è facile, bisogna dire, non è un uomo semplice, è facile, è come Tremonti, un po' carattere, un po'. Senta, ma rapidamente, in 15 secondi, dell'utile, innocente o colpevole? Assolutamente innocente, non c'è bisogno di 15 secondi, ne bastano uno e mezzo. Innocente su tutta la linea? Su tutta la linea, perché lo conosco da troppo tempo e so che lui con la mafia non c'entra assolutamente niente, è stato lui a volere me in Sicilia, se poi io, siccome so io se sono un mafioso, e io so di non esserlo. Benissimo. Se Dell'Utri fosse un mafioso... Per la proprietà transitiva, eccetera, avrebbe pensato a mettere in Sicilia qualcuno... Mafioso, mafioso, certo. Pubblicità. Siamo qui, 19:17. Parenzo, ti si sente meglio, sì o no? Beh, penso di sì, dipende da voi. Beh, insomma, sì e no, sì e no. Cioè, dipende da questo apparecchio del telefono mio che è del 1800. No, adesso meglio, adesso meglio. Adesso molto meglio. Bene. Molto questa bene. È la Zanzara, 800240024. Sai cosa ha detto Di Pietro qualche istante fa? Non è particolarmente importante, non è dirimente, non fa la storia di questo paese, e però a Casini piace stare in mezzo, quindi è inutile rincorrerlo, altrimenti pensa di essere una bella donna. Vabbè, abbastanza scontato. Che è diciamo, meravigliosa, no? Però. Non è sbagliato. Un po' scontato, no? Un po' scontato. Credo che non sia la prima volta. Ogni tanto si ripete anche lui. Anche Di Pietro. Maristel Polanco annuncia agli ascoltatori della Zanzara il TG3. Buonasera a tutti. In questo momento va in onda il telegiornale di Bianca Berlinguer e ascoltate cosa deve dire. Il PD e lei sui referendum, il voto non è politico, nessun effetto sul governo, ma Formigoni avverte, il segnale è stato forte, si cambi strada. Maroni, servono scelte coraggiose, subito la riforma fiscale attesa per Pontida, Alemanno, se attaccano Roma reagiremo duramente. Fisco, la ricetta di Tremonti, tre aliquote per battere l'evasione, ma la riforma si può fare solo senza deficit, debito pubblico nuovo record. L'opposizione sul fisco, siamo alle chiacchiere, il referendum hanno archiviato una stagione, ora bisogna costruire l'alternativa. Arma vincente dei referendum, le piazze virtuali di internet con YouTube, Facebook, Twitter, il passaparola più forte dei partiti. Quella notte in questura ci fu quasi un attacco militare per far rilasciare Rubi, così la Boccassini replica la difesa al processo di Milano. Alla RAI più attenzione per la qualità, avverte l'autorità garante delle comunicazioni, Santoro, mi candido a direttore generale dell'azienda. Torno a casa e metti via ogni aspirazione che ha, torno a casa che oramai ti sei potuto, lo sai. Faccio questa analisi molto semplice. Il governo ha perso e allora, cari amici della Zanzara, via! A casa! Via! Via! A casa! Adesso lo sai almeno che c'è ancora. Era il Parenzo indemoniato di ieri! Riproposto con uno zucchero di sottofondo. Forse ti sei ispirato anche a questa canzone, non lo so, credo di no, hai fatto tutto così in maniera estemporanea. Vabbè, ti sei un po' pentito di questa cosa di ieri, no? Assolutamente, anche perché di questa mattana, di questa mattana di ieri. Che mattana? Perché ho detto semplicemente, caro amico e cari amici, che quando più di 26 milioni, perché la cifra è questa qui, 26 milioni di italiani si sono svegliati alla mattina, hanno preso un documento, cioè una carta d'identità, hanno fatto la strada che li conduce da casa al seggio, sono entrati, hanno salutato il presidente, hanno ritirato quattro schede su quattro materie su cui il governo da tempo aveva messo la faccia e hanno votato quattro sì. Beh, allora, cari amici, io dico solo due parole: a casa. E ora aggiungo, oggi, a casa subito, subito. Ma oggi ne abbiamo anche per la signora Boccassini, caro Parenzo, caro Parenzo, perché rispondendo ai difensori in aula oggi a Milano ha detto la seguente cosa. La notte tra il 27 e il 28 maggio del 2010, quando Rubi fu rilasciata dopo le telefonate di Silvio Berlusconi, in questura si è verificato come un attacco militare. Poi eccessivo. Le indagini hanno ricostruito attraverso le celle telefoniche tutto il tragitto che ha portato Nicole Minetti in questura quella notte come fosse un attacco militare. Con due colonnelli, Nicole Minetti e la brasiliana Michelle Conceição, armate di tutto punto, sotto la regia di Berlusconi al telefono per liberare Rubi Rubacuori. Mentre mi cercate la sigla di Vendola, direi di far sentire l'ironia con cui Gad Lerner ha parlato ieri sera del fatto che Vespa, io aggiungo anche Mediaset, nulla hanno fatto sopra i referendum. Lerner, Vespa parla dei delitti, cioè iniziata porta a porta estate. Non parlate di porta a porta in presenza di Roberto Formigoni, mi raccomando, e voglio anche tranquillizzare i telespettatori che più tardi volessero sintonizzarsi su Rai 1, che è cominciato porta a porta estate e oggi, che è una giornata qualsiasi in cui in Italia non è successo niente di importante, parlerà di cronaca nera e dei delitti più affascinanti del tempo trascorso. Noi alla 7 invece continueremo a fare servizio pubblico. Bisogna dire una cosa, possiamo dire chi se ne frega se Vespa non fa porta a porta, perché se lo fa è servo di Berlusconi, se non lo fa è perché i referendum hanno dato un esito di un certo tipo. In realtà no, era largamente previsto che porta a porta estate iniziasse ieri. Certo, forse TG1 o non so quale rete della Rai poteva fare un approfondimento, ma in realtà ci sono stati gli speciali referendum. Insomma, qual è il problema? Qual è il problema? Il problema è che la cosiddetta terza camera del paese ha deciso di occuparsi della terza camera di Avetrana, cioè anziché occuparsi delle questioni che hanno... Ma non è che ha deciso, era previsto, sono cose registrate porta a porta estate. Tu mi stai dicendo che la Rai non è in grado... Ma no, ma l'avranno fatto nel pomeriggio, credo, degli speciali referendum, perché per forza... Ma questo dipende da un'antipatia feroce di Lerner per Vespa. Ma no, è una constatazione, cioè un grande giornalista come Brunetto Vespa... Ma sarà in vacanza... Ma che in Bonda, ma hai preso una vacanza? No, e quindi neanche Bruno Vespa, non va mai in vacanza. Immagini le vacanze di testo, 5 minuti adesso, non è che qua mi chiama su questa cosa. Va bene, Scalfari, anche se ottiene la fiducia, è grave che Berlusconi rimanga, ci sarà la verifica il 22 giugno, galleggia sul nulla, Eugenio Scalfari. Se lui incassa la fiducia rimane, questo non significa che non sia finito, lui è finito. Rimane ed è solo un danno per il paese che rimanga. Galleggia sul nulla. Oggi, cioè ieri in realtà, ha vinto l'amore per gli altri e non l'egolatria. Questa è l'interpretazione di Scalfari, cioè il referendum ha vinto l'amore per gli altri. Briatore descrive un uomo ammalato e la Santanchè dice sì, insomma, è ammalato. Un uomo ammalato. Io non so se è ammalato, certo... È un'egolatria che ormai ha varcato la soglia recitando il titolo del mio libro. Che si chiama Scuote l'anima mia Eros, edito ecco, da infatti, Einaudi. Infatti Scuote l'anima mia Eros perché oggi ha vinto l'amore per gli altri. Ecco, l'amore... Ed è stato sconfitto l'amore egoistico, egolatrico per se stesso. Va bene, va bene. C'è anche un'interpretazione piuttosto curiosa di Concita De Gregorio, eh? Paura della compravendita, cioè le centrali, gli italiani hanno paura delle centrali nucleari. È un ragionamento abbastanza contorto della direttoressa, direttorissima dell'Unità. Sì. Sentitelo. Credo, come dicevo poco fa, che gli italiani abbiano avuto paura e non si siano fidati di chi avrebbe poi gestito gli acquedotti, le reti idriche, le centrali nucleari, perché noi veniamo da una stagione in cui la linea di condotta di questo governo è stata quella della compravendita delle cose e delle persone. Non mi dispiace, ma io non posso. Ha comprato il consenso. Ma queste sono cose noi abbiamo, non si deve offendere, perché ci sono le intercettazioni. Io invece volutamente la interrompo, perché questo non è un modo. Sono le intercettazioni. Questo era il ministro Fitto. Bene, ascoltatori, caro Parenzo. Mi senti bene, vero? Sì, ti sento bene, ti sento bene. Ottimo. Sento bene. Il guru, il nuovo guru dell'Italia Liberata, lo vogliamo sentire più avanti, Celentano. Il nuovo guru, il nuovo condottiero. Bellissimo. Dell'Italia Liberata, Da via Gluck alle Champs-Élysées. Avanti, più avanti, più avanti. Luigi da Forlì, buonasera. Allora, intanto volevo dire che effettivamente chi paga le tasse oggi in Italia sono solo i dipendenti, no? Perché prima si parlava di riforme fiscali, no? Evasione, robe varie. Va bene, ricordi questo che non c'entra nulla, ma lo ricordi pure. No, c'entra perché l'avete detto voi prima, quindi pagano le... Lo sappiamo che i dipendenti non possono evadere il fisco, questo lo sapevamo. No, sono gli unici soldi sicuri e soprattutto in tempo reale. Lo sapevamo, e allora? Allora è da dire, perché qui si è da dire, benissimo, diciamolo, avanti. No? Diciamolo, perché non si dice poco. Sì. Si fa demagogia parlando di riforme fiscali. Non so se si fa demagogia. Lei ci sta dicendo una cosa ovvia e in più dice che si fa demagogia. Vedremo, io l'ho già detto ieri, secondo me le riforme fiscali si fanno nei primi 100 giorni e non negli ultimi 100, anche se poi in realtà non sono gli ultimi 100 giorni. Lei che cosa ha da dire di più su questo annuncio di Tremonti, delle aliquote, della riforma fiscale? No, appunto, Tremonti si sta trasformando in un vero politico. Fino adesso ha fatto... quasi il tecnico, adesso fa il politico, perché sta cercando di attrarre delle simpatie con questa riforma che, come dice lei, invece andava fatta probabilmente all'inizio, no? Invece adesso non ha più senso. Inoltre, l'ultima cosa che vorrei dire è Berlusconi, chiaramente, sì. No? È inutile, ce lo ripetiamo, ma deve andare a casa. Va bene, deve andare a casa. Questo, dopo questo suo intervento molto originale, andiamo in provincia di Vicenza da Claudio. Buonasera. Dica. Cruciani. Buonasera. Beh, intanto con un po' di coerenza, magari ieri sera poteva mandare l'ambulanza anche da Parenzo, perché sembrava che gli fosse arrivato un flusso. Forse non ha capito, Claudio. Parenzo ha la facoltà, da un influsso da parte del mago. Parenzo ha la facoltà di dire quello che vuole. Facoltà riconosciuta dalla massima autorità che c'è qui dentro, che è il sottoscritto. Ma doveva mandare l'ambulanza anche da lui con le sue sparate. Anzi, guardi, mi piaceva talmente tanto questa, pur non essendo d'accordo, perché io sono un liberale, molto aperto, molto tollerante. E mi piaceva talmente tanto questa cosa che gliela faccio rifare. Dunque, Parenzo, dammi attualizzata all'oggi, all'adesso. Ma che sta facendo l'ambulanza lei, Claudio? L'ambulanza sì, gliela mando lì da Parenzo. Allora, la mandi dopo. Prima faccia esprimere Parenzo, naturalmente attualizzata all'oggi. Parenzo, vai! Beh, cari amici della Zanzara, dopo un'attenta riflessione pacata e ragionata, visto che sono passate 24 ore dalla chiusura delle urne, possiamo dire e raccontarvi una cosa molto semplice. 26 milioni e basta di italiani si sono svegliati una mattina e hanno deciso di andare a votare ai seggi, hanno ritirato 4 schede su 4 materie, badate, su cui il governo aveva messo la faccia e aveva legiferato fino al giorno prima, e hanno votato 4 sì, cari amici della Zanzara. E allora, detta oggi, ci sono soltanto 3 parole per descrivere quello che è successo. Governo a casa! Subito! 4 parole, veramente. Claudio, vada! No, mi viene da ridere. Vada, Claudio, vada! Parenzo, dove si trova che le mandiamo l'ambulanza? È il circo Barnum assoluto. La borsa che è una cosa molto più seria. Sì. Vabbè, allora... L'attacco militare per liberare Ruby Rubacuori. Alla guida un grande stratega al telefono, Silvio Berlusconi. I due colonnelli sul campo con altre truppe in retrovia. Nicole Minetti e la brasiliana Michelle Conceição. Vai Hilda Boccassini. Quindi abbiamo un accerchiamento militare che si dirige tutto in questura di Milano. L'accerchiamento militare, la sua voce originale, non me lo sono inventato, l'accerchiamento militare che si dirige in questura. Beh, certo, è un'immagine molto evocativa, non c'è dubbio, l'accerchiamento militare per liberare la nipote di Mubarak, o la presunta nipote di Mubarak, naturalmente, secondo la versione di Berlusconi. E... La compagnia è un po' singolare, cioè non ricorda l'accerchiamento militare. No, non ricorda l'accerchiamento. Cioè, secondo la signora Boccassini, ci sarebbe stato un accerchiamento militare per costringere i funzionari della questura. Militare significa, naturalmente, armai, non con le armi vere, però con certe armi, quelle c'è della persuasione, del potere, eccetera, eccetera. Con un piano, con una strategia. Con un piano, certo, perché naturalmente i militari hanno una strategia, un piano per liberare la signorina Ruby. E andiamo da Santoro, che dice: beh, visto e sentito Masi, potrei fare anche il direttore generale della RAI, mi candido. La domanda che vorrei rivolgere a Bersani, a chi come lui cominciano a pensare finalmente che la RAI debba essere gestita da personaggi competenti: in che modo noi perverremo all'individuazione di coloro che potranno portare la RAI fuori dalle secche in cui sta? Io, per esempio, lo dico davanti a voi tutti, troverò il modo di candidarmi a fare il direttore generale della RAI. Va bene, sono le 19.38, 800 24 00 24. Questa è inconfondibilmente la Zanzara, caro Parenzo. Senza dubbio. Roberto da Rimini, buonasera. Pronto? Signor Roberto, dica. Buonasera, dottor Cruciani, buonasera. Io volevo solamente fare un ringraziamento ai 5 milioni di elettori del centrodestra che in un confronto leale sono andati a votare, votato no. Ecco, e speriamo, mi auguro che la prossima volta magari siamo 50 milioni di elettori che vanno a votare e che ci sia un confronto leale e onesto. Questo non devo dire però, volevo dire che queste persone, questi elettori che hanno votato no, ma che però sono andati a votare, hanno votato, hanno perso con onore. Hanno perso con onore perché sono... perché guardi che quei famosi 5 milioni di cui parla lei non è che hanno votato tutti no, eh? Alcuni hanno, molti hanno votato sì, per cui non è che hanno perso, alcuni hanno vinto. Dottor Cruciani, tutti gli tantissimi, ma probabilmente anche più di 5 milioni, altri 5 milioni, ma probabilmente anche di più, hanno votato sì, quelli del centrodestra. No, i 5 milioni che hanno votato no, io dico. Poi ce ne sono stati tantissimi altri che hanno votato sì, li conosco. A differenza di lei, dottor Cruciani, che lei non ha detto che se fosse andato a votare avrebbe votato no, certo, ma non sarebbe andato per non raggiungere il cuore, certo, lo ricordo perfettamente, certo, no, ma lo ribadisco, non solo lo ribadisco, ne sono parte che perdere non è che è una battaglia campale eccetera, ma ero pure perso e ne sono anche orgoglioso, devo dire la verità, Roberto, di quello che ho detto, e lo riconfermerei oggi al 150%. No, ma è un'opinione la mia. No, ma è per carità, ma le opinioni... Però io ammiro quelli che sono andati a votare. Magari la prossima volta vincessero loro, me lo auguro, guardi, perché è un confronto leale così. Guardi che è leale anche non andare a votare. La ringrazio. No, mi dispiace. Secondo lei no, secondo me sì. Alessandro dalla provincia di Catania, buonasera. Buonasera, dottor Cruciani, e buonasera al dottor Parenzo. Ma io innanzitutto vorrei dire che all'onorevole Micciché che le minchiate le ha dette lui, perché è ovvio che se diciamo che abbassiamo le tasse, togliamo le macchine blu, come ha detto anche Tremonti, o le autorizzazioni, come diceva lui, risolviamo il problema, ma lo sappiamo tutti, da tanti anni è così. Io le dico un'altra cosa, sono quasi fiero di essere anche un evasore parziale. Perché purtroppo... Che significa evasore parziale, mi scusi? Perché io sono uno di quelli che riesce a fottere lo Stato perché lo Stato fotte noi. Mi dispiace, ma... Come lo fotte lei lo Stato? No, glielo posso dire in separata sede. No, me lo dica, mi dica una cosa, mi dica un modo, ma no, lei fa scusi. Sono bravi commercialisti. Bravi commercialisti a eludere, dice lei. Certo, perché è questo che merita il nostro caro Stato, che ci mette le mani in tasca per poi girare con le Audi, le BMW, tutto lo spreco. Adesso non mi dica che lei elude il fisco o trova un modo per non pagare alcune imposte, certo, perché vede le auto blu, perché è ridicolo. Lo so che è ridicolo, ma lei lo fa perché vuole pagare meno tasse, punto e basta. Adesso non stiamo qui a discutere. Me li voglio godere io i soldi anziché farglieli godere a loro. Ma se tutti la pensassero in questo modo sarebbe un disastro, però. Ma se loro la pensassero in maniera differente, forse sarebbe. No, se le tasse fossero più basse, questo è un altro discorso. Se le tasse fossero più basse, oggi per la prima volta dopo tanti anni ho sentito dire, credo, a Tremonti questa frase qui, cioè che l'evasione si recupera. L'evasione si dopo recupera anche. Dopo le che hanno preso iniziano a dire le cose ovvie che vogliamo sentirci dire tutti gli elettori, che ci dicono da 20 anni a destra e a sinistra. Attenzione, io non ho simpatie per nessuno, perché sono convinto perché anche Prodi abbiamo avuto al governo, abbiamo avuto il centrosinistra, abbiamo avuto tante manifestazioni, ma alla fine quando si devono aumentare lo stipendio, dico, sono cose populiste. Demagogia. Ma quanto evade lei in media all'anno? Un bel po' di 10-15 mila riesco anche a fottere allo Stato. Quanti? 10-15 mila euro riesco. Riesco a? A pagare, a risparmiare. A fotterli, lei ha detto così prima. Fotterli. Perché loro fottono me, io fotto loro. Non è che la fotto. Se capisci come funziona il però sistema... Però si fotte da solo in questo modo, Alessandro. Vorrei farle notare. Però vabbè, non voglio dire, adesso non intavoliamo una discussione sull'evasione fiscale. Per carità. Quindi che questi politici la finiscano di dire cose ovvie e agiscano. Iniziano a diminuirsi. Io sarò il primo a pagare... Sì, ripeto, guardi che la questione... la non ammanti con questa morale facile, perché loro hanno le macchine blu, perché è un po' penosa questa cosa, voglio dire, di fronte. Cioè, dica che la pressione fiscale è tanta, lì se ne può discutere, dunque lei elude 10-15 mila euro l'anno, come ci sta dicendo, perché la pressione fiscale è eccessiva, non perché ci sono le auto blu o la politica costa non troppo. Non la faccia passare come battaglia di civiltà, amico mio. La pressione, perché... mi scusi, è conseguenza dello spreco che c'è. Ma no, sì, perché... d'accordo, no, degli sprechi no, certamente, ma guardi che la questione dei costi della politica non è che sia la prima cosa in cima agli sprechi che ci sono in Italia. No, ma non è solo la politica, non è che... Capito, ma lei di quello, di quello ci ha parlato, Alessandro. Ha parlato le macchine blu. Scusi. Va bene, allora, Giancarlo Galan, buonasera. Buonasera a voi. Come sta, ministro? Ah, bene, abbastanza bene. Il ministro della cultura, allora, come va con Tremonti? Si è deciso un po' troppo tardi questa cosa, se poi mai si farà, della riforma fiscale, bisogna vedere come, naturalmente, i tempi, i modi. Un po' troppo tardi o no? Molto tardi. Ah, tantissimo. Molto tardi. Anni di ritardo. Anni di ritardo, cioè bisognava farlo nei primi 100 giorni del governo, come dico io sempre. Ma bisognava farlo subito dopo il 94. Beh, quello sì, quello è il 94, d'accordo. Occorre essere onesti, insomma, quello era il momento di farlo e dopo è sempre stato troppo tardi, adesso è tardi, ma facciamolo. Meglio tardi che mai, si dice, no, con le frasi ovvie a cui faceva riferimento anche chi vi ha preceduto, ma è vero. Non c'è dubbio, non c'è dubbio, meglio tardi che mai, poi bisogna vedere, ma secondo lei non ha il sospetto di una ennesima ammuina di Tremonti, per carità, avrà pure le sue ragioni, cioè, oppure stavolta è la volta buona? Questa è una domanda insidiosa, come si dice. Come farei a non avere quel sospetto? Sì, ce l'ho quel sospetto, però... io credo che ormai sia diventato per davvero una questione inderogabile, insomma non si può bleffare, non si può fare moina, occorre prendere delle decisioni e quella è la sede per prenderle, è il Consiglio dei Ministri. Che ma ormai è troppo tardi, ministro, secondo lei? Ma no, non è finito? Troppo tardi, non è troppo tardi, ahimè, è tardi, ma non troppo, non è mai troppo. Mai troppo, è vero. Però mai è vero. Troppo per niente, non è mai troppo tardi. Però è vero, detto che dal 94 c'è una rivoluzione liberale tradita. Certo, questo in generale è così. Però voglio chiedere una cosa a Galan, che è questa. Fare una riforma fiscale sull'onda delle difficoltà elettorali, perché poi di quello si sta parlando, diciamo la verità, e invece non averla voluta fare magari all'inizio, perché poi ci sono stati anche là dei problemi, la crisi eccetera, cioè bisognava farla subito, appena eletti, i primi 100 giorni subito provvedimenti sul fisco o no? Bisogna fare quello che noi, io lo dico intanto, credo, cioè adesso non lo si fa per motivi elettorali secondo lei? Diciamo... Ma no, non lo si fa per motivi elettorali, lo si fa perché noi lo abbiamo promesso, perché era nel nostro programma elettorale, perché la gente ci ha dato la fiducia, il consenso per quello, perché è una cosa che serve al paese, perché è giusto farla. Perché noi abbiamo promesso la rivoluzione liberale e questa dobbiamo fare, e nella rivoluzione liberale è compreso anche la libertà da una tassazione che è insopportabile. Parenzo, vogliamo adesso, per carità, non è il compito suo, fa il ministro della cultura, però lei un paio di consigli a Tremonti glieli darebbe, Galan, così i consigli di Galan a Tremonti, dove andare a pescare questi quattrini, perché comunque poi ci vogliono i quattrini per fare una riforma fiscale, Tremonti è molto più bravo di me in questo, è il suo lavoro, sì. E quindi io non mi sento di dargli consigli, così, anche perché lui non li accetterebbe per principio, conoscendo Tremonti, so che avrebbe una reazione non delle più gradevoli. Io gli dico che invece io credo che sia assolutamente possibile mantenere il rigore, ma reperire le risorse per il cosiddetto sviluppo. Io credo che sia possibile dare più libertà a chi ce l'ha già, a chi è capace di camminare da solo, parlo di imprese, e chi è in grado di camminare da solo, sono tanti in Italia, e aiutare chi invece rimane indietro, che è la politica tradizionale, liberale. Io credo che si possa fare. Anche un socialista lo può fare come Tremonti? Ma non dipende tanto da... Ci sono socialisti assolutamente liberali, socialisti che lo sono molto meno. Lui com'è? Tremonti non è un uomo convinto che riducendo le tasse si riduce l'evasione fiscale e lo Stato incassa di più. Dunque deve vincere se stesso. Di questo. deve vincere se stesso per fare questa riforma. Deve fare una forzatura, forse come scriveva oggi su qualche giornale, forse non è giusto che sulla stessa persona, non è opportuno che sulla stessa persona si accumulino tre compiti: prendere i soldi agli italiani, investirli e redigere il bilancio. Sarebbe meglio tornare ai due o tre ministeri separati? Io ho il sospetto di sì. Io credo che la funzione di prelevare i soldi e quella di investirli siano troppo distanti e che non si possa concentrare tutto il potere economico, che è quello reale, nelle mani di un solo ministro. Ma Berlusconi ci sta pensando? Non lo so, spero di sì. Gliel'abbiamo detto in tanti. Ah sì, anche lei gliel'ha detto. Di scorporare il ministero? Certo. Non lo so, questa è una proposta, voglio dire, dopo ce ne sono tante altre, dopodiché è il governo che si deve far carico di una proposta che corrisponda al programma elettorale con il quale si sono vinte le elezioni. È stato molto chiaro, caro ministro. Chiedo anche un'altra cosa. Andiamo a fondo anche sul tagliando al governo, cioè magari cambiare qualche nome, rinfrescare un po', mandar via qualcuno, integrare con qualcun altro. Ma io non lo dico da oggi, ma io credo che questo sia proprio nei poteri e nei doveri anche del Presidente del Consiglio. Se c'è qualcosa che non va, se c'è da fare un tagliano, se si può fare di meglio, perché non farlo? In fondo appartiene proprio alla buona tradizione, non c'è nulla di male nel fare una verifica e cambiare qualcosa. Anzi, io credo che Berlusconi il 22, quando ci sarà il dibattito al Parlamento, dovrà dare uno scossone. Non potrà limitarsi a prendere atto di una situazione difficile, ma dovrà essere fortemente innovativo. Ed essere innovativi oggi significa, a mio avviso, rispettare, prendere in mano il nostro programma elettorale e rispettarlo. Senta, ma una cosa interessante è questa. Una volta lei ha detto, ne ha accennato anche stasera, che Tremonti alla fine ritocca alcuni provvedimenti in Consiglio dei Ministri. In Consiglio dei Ministri vengono presi dei provvedimenti e poi lui li ritocca. È stato questo il problema principale finora? A mio avviso, so che dico una cosa opinabile, ma a mio avviso si è verificata una cosa nel corso di questi ultimi anni. Il potere è stato tutto accentrato sul Ministero di Via 20 Settembre senza un centro che riequilibrasse, che è Palazzo Chigi. Cioè troppo succube, Berlusconi troppo succube di Tremonti è stato fino adesso? No, Palazzo Chigi troppo succube di Via 20 Settembre, c'è una differenza. Sì. Cioè chiunque è lì, lei dice. E il potere tutto accentrato via 20 Settembre, quasi che in Italia ci sia soltanto quel centro che possa conoscere, decidere, deliberare e fare. No, il gioco della democrazia è un gioco di controbilanciamenti di poteri. Ed è stato spostato ogni giorno di più l'asse principale su via 20 Settembre a discapito di Palazzo Chigi. Questo è stato uno dei grandi errori. Senta, con tutte le conseguenze che ha. Certo, se non si riequilibra tutto questo, si perdono le elezioni? Ma questo io l'ho sempre sostenuto. Noi dunque il referendum è una prova in più. Il referendum è una prova in più. Una dimostrazione in più. Le abbiamo viste con quel programma elettorale che prevedeva la rivoluzione liberale. Non l'abbiamo fatto e gli elettori ci hanno punito. Se non lo facciamo, gli elettori non ci votano. Dunque lei è convinto che col Tremonti, diciamo, dell'altro ieri le elezioni si perdono? Io sono convinto che con la politica che finora è stata posta in campo, con la politica economica che finora abbiamo svolto, le elezioni si perdono, facilmente si perdono. Dunque lei mi sta dicendo che questi due appuntamenti persi, perché poi alla fine di questo si tratta, delle elezioni comunali e del referendum, è anche colpa di Tremonti, è soprattutto colpa di Tremonti. È colpa di una politica economica non corrispondente ai desideri dell'elettorato, che l'elettorato aveva premiato. La politica economica di conseguenza chi la fa? Ma non è un problema di Tremonti o non Tremonti, è probabilmente il più bravo in quella materia. Ma però quello che ha fatto non va bene, non corrisponde, non è quello che abbiamo promesso agli elettori. E ha portato... E quindi dovrebbe andare a casa Tremonti. No, dovrebbe andare a casa. La maggiore discontinuità sarebbe quella di cambiarlo subito, e anche la Lega mi pare forse un po' ci sta pensando, no? Ma dovrebbe Tremonti, a mio avviso, se posso dargli un consiglio, glielo sì, do. Sì, glielo dia, va. Prendersi in mano il programma elettorale che credo che lui stesso abbia contribuito a scrivere e rispettarlo. Ah, dunque si ripassi un po', lei dice, il programma elettorale. Se lo rilegga. Se lo rilegga. Ma Tremonti le direbbe c'è stata la crisi economica, ci sono stati il fallimento della Grecia, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi... Sì, sì, per carità, un merito gli va riconosciuto. Uno. Uno grande. Non siamo in una situazione di bancarotta come tanti paesi europei. Mm. Questo è un grandissimo merito suo che tutti siamo pronti a sottoscrivere, è stato un grande ministro dell'economia, ma deve fare di più. Allora oggi, fra poco daremo la linea pubblicità, poi ancora qualche minuto con il ministro della cultura Giancarlo Galan, 800 24 00 24. Caro Parenzo, è successa anche una cosa pazzesca, perché qui c'è uno sfaldamento del PDL che è incredibile. C'è uno sfaldamento del PDL, ancora non si può dire che siamo, siamo in una fase di sfaldamento, però Alemanno, il sindaco di Roma, oggi ha detto: beh, sto pensando a fare un partito di Roma e della realtà laziale. Tu ti rendi conto? Sì, sì, sì. Ci manca sì, solo quello. Ci manca solo quello. Il partito del gran raccordo anulare. La cosa pazzesca. Il partito del GRA. Il partito del GRA, no, oltre il GRA. Il partito del GRA è dei confini della sorta di. Gli ho già dato il nome. Il partito del GRA. Ci sentiamo tra qualche secondo dopo la pubblicità con Giancarlo Galan, ministro della cultura. 800 24 00 24 alla Zanzara. Sassolino nella scarpa, ai, che mi fa tanto tanto male, ai, batto il piede in su, lo batto. E beh, caro Parenzo, il nostro ospite mi piace molto, perché dice pane al pane, vino al vino, caro Parenzo, il ministro della cultura Galan, il quale... Lo conosco da 15 anni. Siete veneti, d'accordo? Da quanto tempo lo conosci? Da 15 anni, 20 anni. Addirittura? Beh, io ero un giovane cronista alle prime armi, sì. E lui era il primo mandato della presidenza della Regione Veneto. Se lo ricorda lei il signor Parenzo Galan? Come si fa a non ricordarlo? Certo che me lo ricordo. Ero un rompicoglioni come oggi praticamente, se lo ricordo. Insomma, forse sei leggermente peggiorato col passare del tempo, ma tutti noi peggioriamo un po'. Assolutamente. Si invecchia, caro ministro. Si invecchia. Sì. Senta, signor Galan, a proposito della Lega, ci vogliamo togliere qualche altro sassolino, ma in senso naturalmente simpatico. Però nei giorni scorsi, davanti a quella sua meravigliosa uscita, devo dire, sul trasferimento dei ministeri. Bellissimo, una cosa meravigliosa. Lei doveva essere addirittura più esplicita. Facciamo risentire un attimo, è stata Radio Radicale. A un certo punto si è tenuto dicendo: beh, non so, siamo a Radio Radicale, non so se posso usare certe espressioni. Però ha fotografato quella che è la questione del trasferimento dei ministeri al nord. Adesso la stiamo cercando, il suo intervento. Insomma, lei ha detto una... cos'era? Una stronzata, no? Una puttanata, no, una puttanata intercontinentale, giusto? Non provocare, farmelo di dire. Sì, era così. La puttanata intercontinentale, bellissima, cosa pazzesca. L'ex ministro Zaia, suo successore, così si è espresso su Galan qui alla Zanzara. Ma a me non risulta di avere nel mio programma di replicare al ministro Galan, me ne guardo bene. Poi il ministro Galan, cioè persona autorevole, elevatura da statista, può permettersi di dire queste cose. Vabbè, questo ha detto ironicamente Zaia sulla proposta. Zaia ha anche detto che lui un ministero in Veneto se lo prenderebbe. Ma secondo lei è solo propaganda questa roba dei ministeri? Beh, io non oso pensare che possa essere una cosa seria, anche perché, per esempio, io avrei preferito che oggi Tremonti, quando gli hanno chiesto dove reperire le risorse, invece di dire la solita frase a effetto un po' populista, comincino a tagliare gli aerei blu, che insomma non si sana certamente il bilancio dello Stato con quello, avesse detto, cominciamo a non spendere e a buttare via altri soldi semplicemente per trasferire i ministeri al nord e complicare la vita ai cittadini ulteriormente. E beh, così, perché oggi Tremonti a un certo punto ha detto si possono risparmiare un sacco di cose, i trasferimenti eccetera eccetera, le esenzioni bisogna rivedere, e poi anche la politica deve fare la sua parte. Iniziamo, chissà perché però non ha parlato della questione delle province, come mai? Ecco, perché ha sostenuto perfino, e la cosa incredibile è che qualcuno gli ha anche creduto, che abolire le province, guarda caso che lui ha scritto nel programma elettorale, non apporta un risparmio, che è un'assurdità evidente a uno studente di seconda media. Risparmierebbe come? E poi sarebbe un segno di un taglio agli sprechi della politica, alla ridondanza della politica, all'occupazione di ogni spazio della politica. Ecco, avrei preferito sentire il mio ministro dell'economia indicare quelle due soluzioni, per esempio, piuttosto che quella populista vera, per carità. Io non so tutti questi aerei blu che li usa, ma evidentemente lei li usa? Qualcuno, io pochissimo, solo per recarmi all'estero quando non c'è un volo di linea che ne consente l'utilizzo e non è previsto, che ne so, l'orario di ritorno, ecco, ma soltanto in quei casi, quindi non certo per andare a casa il giovedì sera o venerdì. Meno aerei blu e più all'Italia, questo ha detto Tremonti. Ma sì, ma non ecco, avrei preferito avesse detto qualcosa di più serio: aboliamo le province, tagliamo molti costi, insomma, ci sono i sistemi per risparmiare. Senta, ma poi oltretutto pensi, tanto per dire una cosa, sì. Io viaggio in treno generalmente, scendo a Bologna e proseguo per casa mia, sono 80 chilometri fino a nei dintorni di Este, a Cintura, quindi vado in treno, pensi un po'. Cioè, secondo lei non c'è un grande spreco di aerei blu? No, non lo so, magari c'è uno spreco, che è una questione però morale, etica, non economica. Cioè, non è che cambiano le cose. Il ministro dell'economia non può indicare, per sanare i mali del paese, il viaggiare meno con gli aerei di Stato. Deve dire qualcosa di serio. Dica, per esempio, aboliamo le province. Dica, per esempio, togliamo i poteri straordinari che tutte le emanazioni degli enti locali hanno. Consigli d'amministrazione, municipalizzate, provincializzate, partecipazioni azionarie, è un'infinità di... Ecco, ma diciamo la verità, lei che giustamente si arrabbia... Bello questo sfogo, dica qualcosa di serio. No, ma dica qualcosa di serio, ma diciamo la verità, Gran, non lo dice, lo sa perché non lo dice? Perché queste cose qui, cioè la questione delle municipalizzate e la questione delle province, c'è la Lega, diciamo la verità, diciamola tutta, lo dica anche lei, Galan. No, l'ho già detto io, non lo dico più, l'ha detto lei, sono contento che l'abbia detto. Dunque è così, cioè non lo dice... Non può far niente, avete un po' le mani legate, cioè Tremonti e la maggioranza hanno le mani legate, questo è il punto. Io oggi credo di aver detto una cosa che riassume un po' tutto questo: Berlusconi torni ad essere e a fare Berlusconi. Commissari lui, Tremonti. Gli è stato impedito in questi anni, c'era sempre una motivazione che impediva di fare ciò che era nel nostro e nel suo programma. Quindi per carità, io non lo assolvo in tutto, qualche errore, qualche peccatuccio. Insomma, ne sono stati, ma l'errore determinante è stato quello di non riuscire a mantenere le promesse che si erano fatte. Quando si promette una cosa e non la fai, l'elettorato ti punisce prima o poi. Forse questo lo può dire Parenzo, una delle cose per cui l'elettorato in Veneto un certo affetto nei miei confronti lo ha sempre mantenuto. Non ho mai mancato quello che avevo promesso. Senta, ma Maroni, che oggi incalza il governo e dice di avere il coraggio di fare scelte, c'è qualcosa che cambia nella Lega secondo lei? Non lo so, è così difficile interpretare i pensieri della Lega, un partito monolitico, un blocco unico fino a ieri, poi si arriva ai referendum e ognuno va per conto suo. Anche Zaia è andato per conto suo. Bossi dice non andate a votare, Zaia dice vado a votare, voto 4 sì, quando prima, quando era ministro, aveva votato sia la privatizzazione delle reti dell'acqua sia il nucleare. Eh certo. Insomma, statista, c'è qualcosa di nuovo, c'è qualche cosa. Uno statista. Comunque, guardi che adesso dalla colpa, tenga conto, teniamo conto che l'elettorato ha punito tutti, ha punito il PDL, ma ha punito anche la Lega. Ecco, se fosse, ha punito il Partito Democratico, guardi a Napoli, è una cosa eclatante, sì. E anche al ballottaggio è arrivato il candidato. Quindi c'è poco da gioire, è un momento difficile. Senta, scusi un attimo, se lei fosse un militante della Lega, andrebbe a fischiare a Pontida, andrebbe a protestare contro Bossi a Pontida? No, assolutamente no, andrei a sostenerlo. Perché... come fanno le persone leali, gli direi abbiate più coraggio, siate più innovativi. Non fate i conservatori. Meno Roma, meno poltrone, più rivoluzione. Questa è un po' una nostalgia, ma non me la faccia dire. Io un qualche rimpianto del Bossi che ci diceva: io non voglio assessori, io voglio il presidente del Consiglio regionale per controllare quello che voi fate. Ma non voglio assessori, non voglio posti di potere, non voglio careghe, si usa questo termine, dalle nostre parti, non mi interessano le poltrone. E oggi invece ci si comporta in modo esattamente diverso e qualche rimpianto. Beh, scusi, la fila delle prime ore me lo dà. Galan, lei è un po' borghezziano da questo punto di vista, un borghezio che per lei, che di lei dice di cotte e di crude. Dai, io qualche libro in più di Borghezio l'ho letto, parecchio. Un padano italianizzato da noi alla Zanzara si è scatenato contro di lei. Sì, perché a me è piaciuto, io devo dire che ho riso quel colpo, perché la scala delle offese è stata bellissima. Un cretino, era la prima offesa, una roba normalissima, sì, per un tipo, un idiota totale, secondo gravità di accusa, ma quella più grave, il top dell'accusa, un padano italianizzato, straordinario, straordinario. Senta Galan, ma i dirigenti della Lega dovrebbero dire qualcosa a Borghezio oppure va per conto suo? Ma no, Borghezio ci sta nella Lega, ecco, fa parte, io come vedi non me la prendo mica. Beh, molto, no, ci mancherebbe un altro. Po' di autoironia, un po' di autoironia ci vuole, insomma. Chi è il Borghezio del PDL? Poi c'è Borghezio, ma anche guardando ai livelli più alti della Lega, non c'è mica identità di vedute anche in quel partito, perché prima parlavamo di Maroni, ma sì. Maroni dice qualcosa di diverso da Calderoli in questi... Ah, non c'è dubbio, non c'è dubbio. Zaia dice qualcosa. Ma lei con Maroni, lei con Maroni, un Maroni premier, potrebbe stare in un governo con Maroni premier, lei? Ma, se ne parla in queste... si parla di tantissime cose. Io credo che in questa legislatura assolutamente non sia pensabile una soluzione di questo genere. Si va alle elezioni, si va indicando il premier e quello che vince. Ma è ipotizzabile in futuro una Lega che candida Maroni alla premiership, oppure è una cosa impossibile? Resta un partito regionale, non può indicare il premier regionale, insomma, un partito territoriale. No, io credo che sia abbastanza difficile, però mai dire mai, tutto può succedere, insomma, può succedere anche quello, lo valuteremo. Lei prima mi ha fatto una domanda personale, io glielo dico, no, io non sono disposto a partecipare a un governo che sostituisca quello di Berlusconi in questa legislatura. Bene, Parenzo. Bene. Liberiamo il ministro? Mi pare ottimo. Vuoi sapere qualche altra cosa? Vuoi avere qualche altra... No, secondo hai qualche me altra curiosità? Secondo me, io la riassumo così. I coordinatori... Fare... No, scusa un attimo, mi è venuta una cosa a me. È una... Tremonti alle ore contate, ecco, detta così. Beh, no, o cambia non è alle ore contate. Non dipende mica da me, Palenzo. Non dipende, se fosse per Galan, da molte sarebbe andato via, diciamo la verità. Galan, due punti, Tremonti alle ore contate, punto esclamativo. Beh, insomma, non dipende da Galan. Se fosse stato per lei, ministro, Tremonti sarebbe stato già sostituito. Sbaglio. Ma no, non lo avrei sostituito, l'avrei richiamato al rispetto del patto con gli elettori. Commissariato, insomma, una cosa. Non commissariato, al guinzaglio, tirato al guinzaglio. Con gli elettori abbiamo fatto questo patto, rispettalo. Sì. Altrimenti scegli tu una via diversa, insomma, ma l'avrei richiamato a quello, cosa che non è stato possibile fare. Va bene, i coordinatori sono rimasti, quelli del PDL, che fanno? Se ne dovevano andare pure loro? A mio avviso occorrerebbe per davvero un ricambio fortissimo, con una prima regola che è molto semplice, mi pare, basta con i doppi incarichi. Facciamo avanzare qualcuno nuovo, qualche giovane, qualcuno... Cioè doppi incarichi nel senso coordinatore, ministro, cose del genere? Presidente della provincia, parlamentare, deputato europeo e coordinatore regionale, ma pazzesco insomma. Io mi posso scrivere al partito di Galan dopo questa conversazione, Parenzo? Vorrei scrivere a un partito che per adesso è il PDL, per adesso Galan, lei resta nel PDL, sì. Ma sì, io sono nato per quello e devo dire che continuo a trovare i motivi per starci. Lo vorrei più somigliante a quello che avevamo sognato, cioè un partito fatto di gente nuova che avesse una sua professione, che fosse disposta a rischiare la sua faccia, perché la politica con la P maiuscola è questa, la sua faccia, le sue idee, i suoi programmi, e nel caso di sconfitta tornasse al suo lavoro. Invece stiamo creando nuovamente quello che la politica è sempre stata, ahimè, in Italia, cioè la fabbrica di un ceto politico, di un ceto di professionisti. Ho una sorpresa per lei, caro Galan, se mi aspetta un secondo. Sorpresissima, ne rimarrà colpito. A tra poco, dopo la pubblicità. 800 24 00 24, strappo ancora due minuti, ma è veramente importante, grandissima sorpresa per lei. Mentre stiamo per lasciare il ministro Galan alle sue cose, caro Parenzo, ci ha chiamato imbestialito Giulio Tremonti. Buonasera. Buonasera Crociani. Mi dica, ministro, ci ha chiamato lei perché stava sentendo qui a Radio 24. Guardi, Crociani, sono abituato un po' a quanto si dice nella sua trasmissione. Prendo atto di questo asse, questa curiosa coalizione tra Parenzo e Galan. Ho saputo che ho le ore contate, ho saputo che dovrei imparare a memoria il programma elettorale, ho saputo tante cose, e forse il ministro Galan dovrebbe occuparsi più della materia di sua pertinenza, che sarebbe la cultura, dice lei, no? O sbaglio? Esattamente. Abbassare le tasse, ministro, sommessamente glielo chiedono tutti, scusi. Glielo può chiedere anche un ministro del governo, non è che il ministro del governo sta mica lì. Mica io. Anche un esponente. Guardi, il discorso è molto complicato e, come potete ben capire, non ho tempo da perdere. Comunque, per favore, Parenzo, guardate, abolire le province... le provincializzate, le municipalizzate, si tratta in ogni caso di provvedimenti non sufficienti a breve termine per portare i benefici richiesti. Okay, questo non evidentemente c'è Galan deve saperlo molto bene, ma adesso mi tirerà fuori anche le quote latte che gli sono tanto care. Diciamo? Guardi, per... ritornando alla riforma fiscale, perché di questo si è parlato quest'oggi, inutile andare a cercare. Ho capito, ma non è un po' tardi? Ma dai! Senta Parenzo, ho perso un'altra occasione per starsene zitto, per favore. Per realizzare questa benedetta riforma fiscale ci sono. Ho capito, ma occorre individuare i tagli per finanziarla, perché non si può fare in deficit. E la prima condizione è l'equilibrio del bilancio. Ma questo lo sappiamo, pubblico, ministro. Bilancio pubblico che da irresponsabili scassare. Ho capito. Se vuole scassare il ministro Galan, scassi lui. Abbiamo la borsa, poi il commento finale del ministro Galan, che ha sentito questo sfogo di Tremonti, giustamente punzecchiato dallo stesso Galan. Duello all'ultimo sangue, tra poco. Siamo qui. Allora, siamo ancora in linea però con il ministro Tremonti. Ha sentito cosa ha detto Galan? Che la sconfitta, queste due sconfitte, le municipali e i referendum, sono anche colpa, principalmente colpa, della politica economica del governo. Caro ministro, lo so che ci deve lasciare, però una battuta su questo. non solo, ho sentito dire anche che è colpa del sottoscritto che ci farà perdere le elezioni. Devo dire che questa è una visione ragionieristica, occhiuta e retrotipica del resto del nostro ministro della cultura. Ho sentito frasi del tipo populista quando ho parlato di aerei blu e dall'Italia. Ho semplicemente detto una verità che forse Galan vuole tacere o comunque nascondere. Vanno ridotti i costi della politica. Ho capito, però i costi della politica sono alti. Le province, ho già espresso il mio pensiero. L'abolizione delle province non porta i benefici sufficienti a breve termine. Dobbiamo fare una politica rigorosa in determinati tempi. Ma è vero entro che lei mi ha detto 2014, sì. Lei lo sa che bisogna raggiungere. Ho capito. Ma è vero quello che mi ha detto prima del collegamento durante l'intervallo, che lei voleva intervenire, ma non voleva avere un confronto diretto col ministro Galan, perché dopo quello che ha sentito, è giusto o no? È corretto o no? Guardi, io non voglio che questa trasmissione vada a finire in una trasmissione cabarettistica. Non siamo al cabaret, quindi preferisco salutarvi. Va bene. Preferirei però maggiore rispetto per una persona che tiene in piedi, e devo dire anche con molta sofferenza, ma bene, riesce a tenere in piedi i conti del paese in un periodo che possiamo definirlo, a ragion veduta, come? Critico di crisi. Vabbè, crisi critico di intesa crisi come cambio di paradigma. Vabbè. Va bene, Parenzo, hai sentito? Lexio Magistralis qui. Terribile, professore, arrabbiatissimo. Ministro, va bene, concludiamo. Che dice? No, intanto che mi avete tirato un bidone e mi avevate fatto una promessa, quella di una sorpresa, ma mi aspettavo qualcosa di meglio, onestamente. Però io un sospetto ce l'ho, quello non era mica Tremonti. Dai, Tremonti non mi telefona mai. Come no? Vuoi che abbia telefonato adesso in trasmissione? No, io non ci credo. Lei non ci crede? Non la chiama mai. Come non la chiama mai? Mai. Non mi ha mai telefonato. Mai telefonato? Da quando se lo chiami lei, scusi. È una buona idea, ci proverò un giorno. Ma non ci ha mai provato? Fino adesso, nemmeno lei? Cioè. C'è neanche il numero. Non ci ho provato un paio di volte. Vabbè, insomma, il dialogo telefonico non funziona molto. Per cui dai, non credo. Tremonti non telefona mai. Lei dice, restiamo con questo dubbio. Guardi che le assicuro che noi non è che alle volte chiama, alle volte chiama, ogni tanto la Zanzara si fa queste incursioni, fa queste incursioni. Vabbè, ministro, grazie, vi saluto, grazie, a presto. Arrivederci. Quelli che ci hanno ascoltato, grazie. 20-25-30 secondi, 800-24-00-24. Perché non ci crede, ministro Galan, che fosse Tremonti? L'ho detto, perché non mi telefona mai, non ci credo che l'abbia fatto questa sera e non ci credo neanche che mi abbia ascoltato. Dai, ma dai. Beh, guardi, noi annunciamo urbi e torbi, può darsi pure che la voce sia arrivata lì al Ministero dell'Economia e che abbia ascoltato, non è detto, mica vive sulla Luna, vive in questo mondo, o no? Ma io non ci credo. Va bene, va bene. Poi la radio del Sole 24 Ore, mica Radio Ciccia. È vero che la Zanzara non è proprio è una trasmissione particolare, è vero, però. Grazie, ministro. Vi saluto. A presto. Saluti. Angelo da Napoli, anzi no, chi c'è? Francesco da Cagliari, buonasera. Buonasera. Dici. Buonasera, Parenzo. Ci dica. Niente, volevo commentare lo slogan del a casa Berlusconi. Io direi a casa a tutti, perché anche gli altri del comitato del sì. Tutti a casa. Beh, qui c'è un'indignazione civica che è da parecchio tempo, da anni, che subisce il cittadino senza essere più rappresentato né nel Parlamento né tantomeno dalla politica mediatica. Mancano i diritti, manca il senso civico. Ma che vuol dire? Abbiamo dovuto subire. Che diritti mancano? Perché, scusi, Francesco. Abbiamo assistito alle campagne referendarie dove il comitato del no era per portare avanti le ragioni del no. L'astensione è una libertà. Oddio, ancora questa storia. Beh, non è ancora questa ma storia. Ma quali diritti sono... sarebbero stati violati? Non mi faccia discorso alla pannella, i diritti, com'è se, che fa? Se qualcuno cerca di coercizzare delle libertà radicale che hanno i cittadini e vengono coercizzate mediaticamente, era un reato. Oddio, lei, è, lei ogni tanto, una volta al mese, perché c'è il blocco delle telefonate, esatto, si fa sentire, chiama e dice che si è violata la Costituzione, i diritti. Parenzo, chi certo sembra? Parenzo, chi sembra? Sembra Marco Pannella, radicali. No, io sono Mazziniano al limite. E poi Mazziniano pure. 5 Stelle, no, no. Mazziniano, Pasolimiano e Inaudi. No, no, Ernesto Rossi. Don Benedetto, non sono per il maggioritario, non mi piace il sistema democratico americano. Io sono per la nostra Costituzione. Come la maggioranza degli italiani, quella scritta. Vabbè. Non questo teatrino che è stato messo in piedi, che non ha più niente a che vedere con quelli che sono i nostri diritti. Aboliamo anche la zanzara, teatrino dei teatrini. Non c'è niente da abolire, c'è semplicemente da rilevare che c'è una rivolta civica, sì, che si esprime democraticamente. Sì. E dunque, che ci facciamo questa rivolta civica? Chi mandiamo al governo? La rivolta civica? Chi mandiamo al governo? No, i comitati del sì, i comitati del no? Chi mandiamo al governo? Dobbiamo trovare politici dal basso che siano realmente vicini ai bisogni dei cittadini che sono persi, che non hanno. Ma sono tutti dal basso, sono tutti eletti più o meno, cioè dal basso. Cioè, tu, chiunque sono nominati, ho capito, ma chiunque è eletto in qualche modo, lasci perdere nominati, non nominati. No, è un andazzo, è un'elezione clientelare. È per autoreferenzialità, è sempre in cambio di qualcosa, non è un esercizio libero, non è il voto uguale, no, non è il voto esercitato come dovere civico nell'interesse della collettività, ognuno vota per se stesso. Ma Francesco, ci sta che uno voti per se stesso, fa parte della democrazia. Scusi, no, un attimo. No, perché l'articolo 48 è chiaro. Ancora questa, lei sarebbe un comico. Lei sarebbe un comico straordinario, così. Guardi, c'è l'articolo 48 della Costituzione, legge, è una cosa pazzesca. No, 48 sull'articolo 48. Ci legga l'articolo 48, su. Che si rivoltano civicamente e che non riconoscono più dei partiti che sono comitati d'affari perché non curano gli interessi dei cittadini. Te li danno per elemosina, ti danno le briciole, quando invece il loro compito principale è dare diritti ai cittadini. Il Movimento 5 Stelle, Francesco, lei è del Movimento 5 Stelle, no? L'unico movimento che porta avanti anche la questione dei tagli alla politica, sarà anche populismo, però la maggior parte dei cittadini sono talmente spiazzati, talmente che vanno a vedere anche quello, dico, ma com'è possibile? Va bene, grazie Borsa, torniamo tra un attimo. 800 24 00 24. Ilda Boccassini, l'attacco militare alla questura. Cioè, è straordinaria questa cosa, perché l'attacco militare, l'utilizzazione di questa espressione, ne sono affascinato da quando l'ho letta oggi pomeriggio. Cioè, mi sono appassionato a questa cosa, perché è straordinaria. Per carità, c'è una strategia difensiva e c'è una strategia da parte dei pubblici ministeri, anche qui, no? C'è la drammatizzazione della vicenda. È un processo, non c'è dubbio. Dunque c'è da parte, non c'è dubbio, gli aspetti teatrali e in questo caso la Boccassini, un attacco militare alla questura. Io avrei detto una trama costruita per liberare Ruby Rubacuori. Beh, quello però sarebbe banale, una trama costruita sarebbe banale. Invece l'attacco militare, cioè quello che si è verificato nella notte tra il 27 e il 28 maggio 2010 è stato un attacco militare. Senti la voce di Ilda La Rossa. Quindi abbiamo un accerchiamento militare che si dirige tutto in questura di Milano. L'accerchiamento militare che si dirige in questura di questo plotone, di questa... Ma composto, perché è un film di Monicelli, in fondo è un film di Monicelli, quello che poi strucca, quando vai a descriverlo, ci sono i protagonisti di questo accerchiamento, sono una prostituta brasiliana, una consigliera regionale molto bella, procace, eccetera, armata di telefonino in collegamento col signor Berlusconi da Parigi che gli diceva: allora dove sei? L'accerchiamento militare, questo sarebbe l'accerchiamento militare. È difficile immaginare la bellissima signora Minetti che avanza con passo di oca, cioè è difficile, no? Vedete il passo dell'oca qual è, no? Come no, certo. Va bene, Antonio da Roma, buonasera, caro Antonio, come sta, caro Antonio? Buonasera, Buonasera. Mi dica. Allora, volevo chiedere al dottor Parenzo... Ti piace poco, Antonio? Mi piace poco, Antonio. Volevo sapere se il dottor Parenzo ha intenzione di scendere in politica nelle prossime elezioni, se sono anticipate o a fine legislatura. No. No, la risposta è no. Vorrei che fosse certa la risposta. Eh? È certa veramente che non... non ho capito. Beh. Le sta rispondendo dalla sua viva voce, posso signor... garantire che voglio continuare a fare bene e divertendomi il mestiere più bello del mondo, che è quello di fare il cronista. Basta. Perché, perché dice questo, Antonio? Perché ha questo sospetto lei? Perché... aspetta, non ce l'ho soltanto io, ma che si stia preparando. E chi ce l'ha? Cioè, non è che in Italia si parla della discesa in campo, detto con tutto il rispetto. Però prova a cena e vedo che lei c'ha un grande seguito, nonostante Parenzo, e quindi tutto questo. O forse grazie a Parenzo. Mi fa piacere di essere un argomento di conversazione, Antonio. Sì, se le fa piacere, però ecco, noi abbiamo l'impressione che lei si stia preparando in... Ma questo soprattutto per l'ultima uscita? No, assolutamente, da parecchio tempo, insomma. Da parecchio tempo, da parecchio tempo. Potrei fondare un partito, effettivamente. No, ma penso che ci sia già, voglio dire, ma così. Vabbè. Mi fa piacere che lo dica così. Vabbè. Le garantisco che non ho nessuna intenzione di candidare, ma nessuna proprio. Intanto facciamo un bel annuncio per tutti i nostri amici homosex che sono... in ascolto, e sono tanti, caro Parenzo, e sono tanti. C'entra? No, non sto dicendo che io c'entra. Io sono eterosessuale. Ma lo so, ma che c'entra? Adesso non ti devi giustificare. Ho detto, No, stavi per dire, facciamo il grande annuncio, Parenzo è... No, ma dico, no, c'hai la coda di paglia, non stavo affatto dicendo questo. No, allora, Lanza rilancia questa notizia. New York ha un passo dai matrimoni omosessuali. Lo Stato di New York è a un passo dal concedere alle coppie omosessuali il diritto di sposarsi. Quattro parlamentari newyorkesi, che finora si erano schierati contro le nozze gay, hanno dichiarato pubblicamente di essere a favore del provvedimento, che potrebbe essere messo ai voti dal governatore Andrew Cuomo già in settimana. Cosa pazzesca. Emanuele, provincia di Foggia, buonasera. Sì, buonasera. Cruciani, buonasera. Dica. Io credo che sia legittimo chiedere le dimissioni del governo e della maggioranza che lo sostiene. Ma ognuno le può chiedere. Sì, no, ma le spiego una cosa. È tutto legittimo. Vorrei solo finire un ragionamento che dura un minuto. Guardi, sui tre quesiti... Ah, lei è il solito che chiama spacciandosi per mano dalla provincia di Foggia, invece... No. Il solito comunque va bene, cambia il numero di telefono. Diciamo che non c'è tempo per discutere questa cosa. Siccome la riconosco, è evidente che è lei. Comunque, lasciamo perdere. Ha trovato l'ennesimo telefonino, che è il decimo numero di telefono che utilizza lei. Il decimo, e ogni volta ognuno associato a un nome diverso che si inventa. No, vorrei capire. Mi fa dire democraticamente una cosa. Ma sì, democraticamente, adesso non esageriamo. Insomma, Emanuele, no, vorrei dire, i nomi se li inventa sul momento oppure ci pensa la notte? No, questo vorrei capire. Sono curioso. È una cosa istintiva che nasce al momento. Dai. Di capire fino a dove può arrivare la mente umana, allora, capito? Ascolti un attimo, Giuseppe Cruciani, ascolti un attimo. Sì. Allora, il governo chiese la fiducia al Parlamento e al Senato nel decreto Omnibus per discorso sul nucleare. Il governo chiese la fiducia per quanto riguarda il decreto Ronchi sulla liberalizzazione di alcuni servizi. Sì. Il governo ha chiesto la fiducia per il cosiddetto legittimo impedimento, fiducia che Parlamento e Senato gli hanno accordato, fiducia che adesso gli italiani gli hanno tolto. Secondo lei, un governo serio, un politico serio, cosa dovrebbe fare? Non dovrebbe dimettersi? Altro che continuare con le chiacchiere pure di un governo tecnico. Qua anche la maggioranza che l'ha sostenuta gli ha dato la fiducia, fiducia che gli italiani gli hanno tolto. Secondo lei non è giusto chiedere le dimissioni o no di questo caro governo Emanuele, di questi politici? Caro Emanuele, lo dico io, non è che lo dice lei, dica, abbia pazienza. Adesso vuole condurre pure, cioè fa il furbo con le telefonate, e numeri di telefono diversi e nomi diversi, e poi dice pure, cioè vuole pure ma condurre la trasmissione. Per non rispondermi, mi faccia capire, dottor Cruciani, perché no, ma sto scherzando. Emanuele, lei può fare quello che vuole, io non rispondo delle malattie altrui, cioè se lei è... Ma quale malattia, Cruciani? Ma siamo seri, ma quale malattia? Allora, comunque... Già ci ascoltiamo in Rai tanti commentatori di parte che non sono Santore, si permettono di dire che è Santore di parte. Parlo di Forbice, parlo di ma che di c'entra Scavi, adesso? Scusi. Cioè già ascoltiamo tante di queste persone, non non cada pure lei in questo giochetto qua. Non ma non c'è nessun giochetto, i giochetti li fa lei, Emanuele, non è che li faccio io. Sottilmente di parte, sottilmente di vabbè, parte. Comunque. Siamo un po' più seri, dai. Sì, sì, sì, dai. Comunque, Emanuele, rispondo la cosa... Rispondo a questo quesito. Ma quale quesito devo rispondere? Quale? Quale? Sulle dimissioni di Berlusconi? Allora, certo, guardi, c'è un governo, una verifica... Ripeto, I governi cadono, secondo me, nascono e cadono in Parlamento. Senta, 20 anni fa questa situazione avrebbe portato alle dimissioni del governo perdere, e della maggioranza. 20 anni fa, quindi non mi interessa a me, io sto dicendo quello che penso io, vuole sapere quello che penso io oppure deve continuare a fare... No, allora, mi interessa saperlo. Dai. E allora, io penso una cosa, il governo è molto indebolito, questo è evidente, a mio parere i governi però... nascono e muoiono in Parlamento. Quando il governo Prodi, che era nato molto debole, a un certo punto non ottenne più la fiducia in Parlamento, si andò serenamente, per modo di dire, alle elezioni. E la stessa cosa potrebbe succedere, per esempio, adesso c'è la verifica al Senato, il 21, il 22, quello che è, ci sarà sicuramente... Quando cambiano le maggioranze, Berlusconi non deve dire che ci sono i ribaltoni, è una cosa democratica, no? Anche lei non deve insistere sul tasto che... le maggioranze, poi nel Parlamento ci sono i ribaltoni, non credo, no? Guardi, la maggioranza a parte la fuoriuscita di Fini, è certamente cambiata, come dice Parenzo, si tratta di una sorta di mini ribaltone, di piccolissimo ribaltone, però in realtà la maggior parte dei deputati che ora sostengono la maggioranza, dopo esserne usciti provvisoriamente, erano stati eletti col nome di Berlusconi. Ci saranno 6-7 deputati alla Camera che erano stati eletti nell'Italia dei Valori, chi nell'UDC, eccetera, eccetera, ma si tratta di piccolissimi numeri. In ogni caso... non è il ribaltone totale, insomma, non c'è stato un ribaltino, ma ci sono dei voti di deputati che mi sembra sì, io ho capito cosa vuole dire, però spesso sentiamo dire dalla parte del centrodestra che nel momento in cui si tocca la legittimità del voto popolare, no, questo suffragio universale dato dal popolo, si parla di ribaltoni. Allora il popolo ha deciso. Ma non governo, è che il referendum decide. Hanno fallito. Ho capito alcune delle politiche del governo. Il governo ha chiesto la fiducia su questi temi. La ho capito, ma Parenzo lo sta dicendo da due giorni. Parenzo, dillo, perché sostanzialmente lei, Emanuele, non so come diavolo si chiama, non si Emanuele, chiama Emanuele. Ma quale Emanuele? Sì, Emanuele. Questo mi rattrista molto di pensarla come Emanuele. Mi rattrista. Però un po' è così. Per cui ripeti quello che stai dicendo da due giorni. Urbi e torbi stavolta. Urbi e torbi. Beh, cari amici della Zanzara, dopo attenta, accurata riflessione, siamo arrivati ad una conclusione molto semplice, che se 26 milioni di italiani sono andati domenica e lunedì alle urne e hanno ritirato 4 schede e hanno votato 4 sì su 4 materie su cui il governo aveva posto la fiducia più e più volte, beh, allora cari amici, ci sono soltanto 4 parole che oggi possiamo dire a questo governo e a questa maggioranza: a casa subito, a casa subito! Lo sai che sono un po' stanco questa sera, Parenzo? Sono stanco. Sono 3 parole, come mi dicono dalla regia. 3 parole, non 4. A casa subito. Paolo, provincia di Venezia, buonasera. 20:48, è un ascoltatore. Buonasera signor Io Paolo. Io sono quel famoso centralinista del comune di Venezia che diceva che Parenzo imita il mio ex signor sindaco in maniera impronunciabile. Vabbè. Impronunciabile come, Paolo? Mi scusi. Ma bene o male? Penso che proprio non assomiglia a nulla. Beh, guardi, Paolo, ci sono pareri discordanti. Ma che devo cosa dire... sta dicendo? Ma che cosa sta dicendo? Sta buon Paduan, che lì, che so campagnolo, so bene. Ma Vattore il Vaporetto, Gondola! Io sto studiando Feuerbach in questo momento. Sto comunque, studiando Feuerbach. Io volevo dire al dottor Crociani, lui che dà dell'imbecille agli ascoltatori. Veramente è successo una volta? È successo una volta, d'accordo, ma era riferito al ragionamento, non alla persona, mi pare evidente. Non è un reato. Io ritengo che non sia corretto. Vabbè, comunque, d'accordo Paolo, no, è roba vecchia, io non insomma. Ho la verità in tasca. Ma è roba vecchia, è roba vecchia. Sì, sarà anche roba vecchia, come vuole lei, perché tanto lei l'ultima parola ce l'ha. Io dico, meno male. Lei che dice che tutto il pubblico è marcio. Ma chi la dice? Ma chi lo dice? Ma chi lo dice? L'ha detto, non dica di no. Ma io non l'ho detto questo, non l'ho mai detto, Paolo. No, ma detto a proposito di che? A proposito di cosa? La roba pubblica, eccetera. No, volete, io non ho detto tutto. Il calcio Vabbè. È pulito. Ma che c'entra il calcio? Ma cosa che c'entra il calcio? E non è privato il calcio, di chi è? Ma io non ho detto, io ho detto che finora la gestione pubblica dei servizi locali, e naturalmente ci sono dei casi virtuosi, per carità, ma dà origine, come è evidente, a sprechi, ruberie, clientele, eccetera, eccetera. Rubano poco. Ma che c'entra? È diverso? Ma non diciamo fregnacce. Vabbè, non diciamo fregnacce, avanti. Paolo, allora, comunque, tendenzialmente nella gestione di questi servizi, io personalmente penso che il privato possa essere più efficiente, naturalmente anch'io, con una regolamentazione, anch'io, con un controllo, eccetera, eccetera. Anch'io lo penso, mi venga a prendere a casa, mi mandi i carabinieri a casa, mi mandi no, i carabinieri. Non mando nessuno io. Io rispetto, io per me è irricevibile i discorsi che fa Crociani. Va bene, d'accordo, sono irricevibili. Io li ascolto perché a me piace ascoltare la controparte, però non mi venga a dire che è super partes. Ma io non sono super partes per niente, sono super, basta. No, no, è super, ma di parte però. No, Paolo, della mia parte, insomma, della mia parte, forse sì. Bene, Paolo, lei è molto simpatico, continua ad ascoltarci. No, no, io non sono simpatico, io so che sono un rompiballe, però bene, ma ci va bene anche così. Ma ci va bene anche come rompiballe, Paolo, la sua simpatia significa che lei è un rompiballe, altrimenti se non fosse rompiballe non ci piacerebbe, diciamo la verità. Poi la saluto, la ringrazio, buonasera. Buonasera, Livio. Ciao, da Paolino. Roma. Livio da Roma, buonasera. Buonasera, dottor Cruciani. Dica. Senta, io non so se riuscirò a portare a termine questa mia telefonata. Beh, dipende. È una telefonata praticamente di indignazione, in quanto lei come rappresentante di una radio nazionale, sì, che tra l'altro prende i soldi da noi contribuenti. Ma non mi risulta comunque. No. Percepisce. Non mi pare proprio. Io la pregherei solamente di una cosa. Non mi pare proprio. Ah, va bene, allora sono cose inventate da me. Io la Livio, non prendiamo nessun finanziamento pubblico, insomma, ecco, in senso allora, stretto, ci sono dei piccolissimi contributi, ma non c'entra nulla. Un leader, no? Come? Ecco, io la pregherei di essere più equilibrato. Perché ma io non ci penso nemmeno lontanamente ad essere più equilibrato. Mi fa parlare cortesemente? Ho capito, allora, le rispondo. Io la prego di essere più equilibrato, perché qui l'ascoltano gente che non è stupida. 27 milioni di votanti, sì, non hanno sodomizzato solo Berlusconi, ma hanno sodomizzato anche lei che la pensava diversamente. Beh, un politologo, ecco, un mettere la pomata, grazie. Un fine politologo il signor Livio, Angelo Parebianco, un nuovo Angelo Parebianco il signore. Beh, devo dire, sì, un'analisi fine, per carità, noi non è che siamo quelli. Un'analisi, come dire, simile a quelle che fa il professor Ricolfi sulla stampa, questa, no? Questa che ha fatto il signore. I 27 milioni hanno sodomizzato anche lei. Cosa pazzesca. È meraviglioso, perché è meraviglioso. Lui era tutto indignato, però a noi piace moltissimo invece quando ci attaccano, no? Rocco da Palermo. Chi è Rocco? È un ascoltatore sempre. Ma quanta gente, guarda che hai seguito pronto la tua trasmissione, Pronto. Rocco, dica, signor Rocco. Tutta gente che telefona. Buonasera. Bellissima. Un saluto al signor Parenzo. Ciao. Io volevo volevo intervenire sul referendum. Sia Parenzo, Bersani e molti politici di sinistra, sì, si sono appropriati di un voto. Non lo dica però così, in maniera sembra che sta per piangere, Rocco. No, attenzione, quello è piangere. È un mio modo pagato di parlare, no. Siccome oggi siamo abituati sempre a buttare voce, se vuole io posso anche buttare voce. No, perché buttare voce tra l'altro è un'espressione meravigliosa, palermitana. Rocco, dica. Quindi io volevo dire, sia Parenzo che Bersani, anche altri politici. Parenzo e Bersani, non è che sono uguali. Non sono un politico, però comunque va bene. Bersani è un politico, Parenzo è un giornalista e non fa altro che ripetere da giorni che 27 milioni di italiani sono andati a votare per questo referendum e il governo deve andare a casa. Questa è una stupidità. Io faccio parte di uno schieramento di centrodestra. Sì. Sono andato a votare io, la mia famiglia, ho incitato i miei amici ad andare a votare. E come mai? Ho votato un bel gruppo di persone, abbiamo votato per il sì. Intanto volevo dire che, a mio avviso, se non ho letto male, Parenzo dà un'informazione sbagliata, perché il referendum sull'acqua... Ma guarda che la pensa come lei, Parenzo. Come? La pensa come lei su questo, sì. Scusi, se lui dice che deve andare a casa, non so se lui scherza oppure dice... La mia era un po' comica per tirare le fila, ma io non sono andato, primo, non sono andato a votare, primo. Secondo, se fossi andato a votare, avrei votato 3 no e un sì. Il no sul, i 3 no su acqua. E uno sul legittimo impedimento, però... Dobbiamo lasciare tutti, perché il tempo è terminato, i tempi sono strettissimi, gli orari indifferibili. Rocco, ci sentiamo domani, la richiamiamo. Francesco da Modena, Paolo da Roma, Angelo da Napoli e tanti altri. Un saluto dal Granducato di Toscana da parte di David Parenzo. Ciao. Sì, e ci vediamo domani a Roma. Domani 18:30. Ricordati che devi morire. Come? Ricordati che devi morire. Va bene. Ricordati che devi morire. Sì, no, mo me la segni proprio, c'è una cosa, non vi preoccupate. Radio 24, la passione si sente.